Senta, lei farà il una formula che sottosegretario? accontentasse tutte e due. Lei farà il Scusi, sottosegretario? scusi, non l'ho Lei sentito. farà il sottosegretario prossimamente? Credo proprio di no, anche perché secondo me non ci sono posti abbastanza. In politica mai dire mai, eh? Mai dire In mai. politica mai dire mai, Ma lei lo capisco farebbe, cioè, se perché. glielo dovesse offrire, lo farebbe o no? Guardi, se mi dovessero offrire quello alla sanità, no, perché non saprei dove No, a mettere le mani. sanità, Certo, se adesso. mi facessero parlare di azienda, mi piacerebbe Allo molto. sviluppo Allo economico. sviluppo economico lo farebbe, insomma. Beh, sì. Sì. Credo di avere il curriculum necessario per poterlo fare. Io sono rimasta incollata alla sedia e ci sono i filmati. Tutti, non tutti, si sono alzati ad applaudire. Io sono rimasta esterrefatta perché tutto mi sarei aspettato da quel discorso, visto che una settimana prima il presidente mi aveva nuovamente rassicurato che mai mi sarei trovata nella condizione di votare la sfiducia al governo, perché era la cosa che mi preoccupava di più Ho capito. da persona che si No, occupa di ma crisi lei è stata economica. chiarissima, dunque un po' frilla fregata da questo punto di vista. Beh, parezzo, più di una risposta così è chiaro, poi ognuno può Non ho dire. dubbi su questo. Fino a Bastia Umbra io ho condiviso un percorso che a me piace ancora perché l'idea iniziale, e guardi che anche il manifesto è meraviglioso, un gran bel manifesto, come non sottoscriverlo, voglio Beh, dire, insomma, un po' ma generico, però l'idea comunque. iniziale di future libertà era un'idea vincente, era quella di fare da stimolo ad un centrodestra che si era E addormentato.